quindi c'era anche la possibilità che mi accadesse qualcosa. E si costituì perché aveva paura di essere ucciso. Fece capire che era disposto a parlare e secondo me fu un avviso bello e buono. E la domenica ci venne notificata l'ordinanza con cui ci veniva tolto il processo. Il 18 gennaio del 77, dopo il trasferimento di tutti i tronconi dell'inchiesta a Catanzaro e dopo 8 anni dalla strage, ha inizio il processo per la strage di Piazza Fontana. Sul banco degli imputati si ritrovano tutti insieme anarchici, neofascisti e uomini dei servizi segreti. Inizia un iter giudiziario che si conclude solo il 27 gennaio dell'87. Dopo 17 anni dalla strage di Piazza Fontana, la Cassazione assolve in via definitiva tutti i principali imputati: Franco Freda, Giovanni Ventura e tutti gli altri imputati. La strage di Piazza Fontana, insomma, sembra destinata a essere archiviata. E invece l'inchiesta non è ancora finita. A Milano il giudice Salvini trova nuovi elementi. L'indagine di Salvini si allarga ad altri membri di Ordine Nuovo, a cominciare da Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni. E l'indagine di Salvini può contare anche su un'altra testimonianza che viene sempre dal mondo di Ordine Nuovo, quella di Vincenzo Vinci Guerra. Potevano ispirarsi sul piano storico al passato regime, ma si ritenevano impegnati nell'attualità a difendere questo Stato anticomunista. Proprio per il loro presunto legame con le istituzioni, Vinci Guerra critica molti dei suoi ex camerati. Personaggi che hanno appunto tutti quanti una caratteristica in comune: essere legati ai corpi dello Stato, essere legati allo Stato italiano. Al di là delle etichette e della rappresentazione che si sono fatti e ne è stato fatto. Attraverso il legame tra destra e istituzioni, Vinci Guerra racconta la sua verità sulla strage di Piazza Fontana. La definizione di strage di Stato per Piazza Fontana mi pare che sia più che adeguata. Non esiste un uomo che ha confessato la sua partecipazione a una strage, a un massacro di civili. Dovrebbe riconoscere la responsabilità dello Stato nella strage della strage. Ma quanto è credibile Vinci Guerra? Il 2 novembre del 96, sulla via Appia, viene scoperto un archivio segreto dei servizi di sicurezza. Ce ne parla lo stesso magistrato Guido Salvini, che ha riaperto le indagini sulla strage di Piazza Fontana. C'erano il SID, che era il servizio segreto militare che dipendeva dal Ministero della Difesa, e l'affare riservati, che era il servizio civile che dipendeva dal Ministero dell'Interno. Entrambi furono presenti nella strategia con funzioni diverse. L'ufficio affari riservati è dunque una struttura parallela al SID che risponde al ministro degli interni. Per 30 anni è la fonte esclusiva delle notizie e degli atti di terrorismo e delle altre stragi. Il suo capo, Federico Umberto D'Amato. Si scriveva chiaramente nelle relazioni che trovammo in un deposito: l'importante è creare dei gruppi di sinistra finti, portarci dentro delle persone che sanno usare le armi d'esplosivo, in pratica spingere a fare azioni che alla fine saranno loro danno. Quindi l'ufficio affari riservati è quello che prepara e dirige lo spostamento solo verso gli anarchici delle indagini, quindi agisce prima. Per la strage di Piazza Fontana del 1969, ad esempio, la pista anarchica nacque all'interno della squadra operante a Milano dell'ufficio affari riservati. L'autore della strage doveva essere l'anarchico Pietro Valpreda, un colpevole fabbricato a tavolino. Probabilmente il SID è quello che agisce dopo, in modo da far fallire le indagini. A confermare il coinvolgimento dei servizi segreti nella strage di Piazza Fontana e il generale Gianadelio Maletti, all'epoca numero 2 del SID, oggi latitante in Sudafrica. Così le parole dell'ex ufficiale. C'era certamente una collusione e una compenetrazione tra informazioni che ricevevano i carabinieri e che in alcuni casi venivano chiaramente trasmesse per evitare